Gea ha una febbre da cavallo, si dice che una ragazzina la salverà. Eolo fuma come un vulcano e non riesce più a spegnere tutte quelle candeline. Le ore cercano perdutamente una metà, intanto giocano alle sedie musicali. Poseidone ingoia solo Coca-Cola sopra un'isola di plastica che vaga nell'oceano. Ares è stato rimpiazzato da droni, satelliti e disinformazione. Atena è accusata di fiancheggiare i russi, complice di presunti stati canaglia. Caronte traghetta anime dalla Libia e intasca l'obolo da chi l'ha bombardata. Zeus è condannato alla sedia elettrica negli Stati Uniti per insubordinazione. Pluto si è inguaiato al videopoker e poi si è indebitato con il fondo monetario. Demetra l'ha rapita alla Monsanto, la imbottiscono di OGM e deforestazione. Artemide confeziona carne in scatola ogni notte nel sottoscala del quartiere a luci rosse. Era risparmia mettendo l'utero in affitto, intanto Eros fa godere il suo touchscreen. Apollo, scartato ai provini di X Factor, è virale la sua pagina di meme. Narciso era drogato di selfie, venerdì l'hanno investito mentre contava i like. Afrodite, sfigurata da un chirurgo, poi foto ritoccate per svendere crociere. Le ninfe adesso trovano sessista al loro dono e le muse ci decantano in playback. E da decenni in cassa integrazione l'hanno arrestato con indosso un gilet giallo. Hermes fa consegne per Deliveroo sognando di percorrere la via della seta. Estia sfrattata in primavera l'han trovata inerte sotto un ponte a Capodanno. Ad Atlante gli han tagliato la pensione, ora sfoggia il firmamento già il campo di bocce. Ade ha comperato una seconda casa, l'ha voluta all'aria aperta. Tanato ce l'ha con la Palestina e si porta via in anticipo i migliori di noi. Caos inizia a esigere un po' d'ordine, parrebbe che Dioniso sia sempre a proprio agio. Qualcuno visto spingere la culla della democrazia, giù dalle scale di una rapina.